Buonasera, vi do il benvenuto presso la Biblioteca Claudia Augusta per questa serata di presentazione del testo di Tony Visentin, Non siamo l'ombelico del mondo, che è una raccolta di 100 editoriali sul Corriere dell'Alto Adige, pubblicati fra il 2005 e il 2011. Interviene anche Gabriele De Luca e vi ricordo che la biblioteca ogni settimana più o meno ha la presentazione di un nuovo tema, di un nuovo libro. E la prossima settimana sarà presentato Il Gallo Cedrone, che è un romanzo di Giambattista Venacchio. E vi auguro una buona serata, domando i saluti dall'assessore e lascio la parola a Gabriele Luca. Grazie. Allora, io potrei provare a parlare senza microfono se per voi la mia voce giunge chiara e distinta. È una voce forte. Però, se no posso anche usare questa voce. No, è meglio senza. È meglio senza. Allora, di quelli vicini dicono senza, sì, quelli lontani eventualmente. La sala è così piccola. Eventualmente vedo che anche in questi piccoli consessi si riproduce il meccanismo tipico delle classi scolastiche in cui le prime file vanno deserte, perché, ma qui noi non abbiamo intenzione di interrogare nessuno, per cui volendo potete anche venire in prima fila e non siamo nocivi alla salute, credo, sì. Insomma. Allora, noi pensiamo che arrivi qualche persona importante. Sì, vabbè, ma stanno dietro, sarebbe anche una scelta giusta. Allora, presentiamo il libro di Tony Visentini. Tony Visentini penso sia a voi, cioè direi, noto, per cui non ha bisogno di una che io mi diffonda in notizie di tipo biografico. Presentiamo soprattutto un libro, più che la persona, chiaramente, questo libro che si intitola Non siamo l'ombelico del mondo, 100 editoriali sul Corriere dell'Alto Adige, libro poi impreziosito da una prefazione del giornalista del Corriere della Sera Gian Antonio Stella e seguito da una postfazione di Tribus della Tageszeitung. Quindi un documento, un libro che ha tre firme, anche se quella principale ovviamente è quella di... Quattro, c'è anche Enrico. C'è anche la presentazione di Enrico Franco, è vero, mi stavo scordando, il direttore del Corriere dell'Alto Adige. Allora, questo è il libro, diciamo, della sua confezione esterna, edizione Rezia, che è una... importante casa editrice locale che ha un occhio privilegiato appunto sulle produzioni locali sia in lingua italiana che in lingua tedesca. Allora, io mi ero studiato una cosa per partire e la voglio fare lo stesso, se sei d'accordo. Io, certo. È molto breve, è un cameo, però ci tengo a farla perché mi sembra importante. Allora, generalmente si dice sempre, questo è un collega, per dire, insomma, non vi do importanza io dicendo questo, un collega è un amico, ma soprattutto un amico. Io invece direi che Tony è per me, ma per chiunque poi scriva e segua la politica locale, azzardo questa parola, poi la spiego, non deve spaventare, è un maestro. Chi sono i maestri? Chi sono i maestri? I maestri sono quelli a cui si guarda per capire meglio quello che ci sta intorno. O meglio, sono le persone che grazie alla loro intelligenza, preparazione e soprattutto esperienza rendono più digeribili quelle porzioni di conoscenze che altrimenti noi faremmo fatica ad assimilare. Io su questo sono abbastanza sicuro di poterlo dire perché essendo un altoatesino di importazione, persona non nata qui, è venuta qui poco tempo fa o molto, dipende dai punti di vista, comunque non più di 15 anni fa, quando sono sbarcato qui avevo la necessità di capire dove ero arrivato e essendo una persona che ama leggere sia i giornali che i libri, ho cominciato a cercare delle figure in cui potermi più che identificare, a cui poter guardare per fare prima capire certe cose. Ecco, leggendo gli editoriali di Tony sul Corriere, ma anche le cose che scriveva prima, sicuramente si ha a che fare con una persona molto introdotta nell'ambiente sud tirolese e capace di avere quella che io chiamo, è anche il titolo di un film famoso, la giusta distanza. Perché in un contesto come il nostro, che suscita sempre passioni, partigianerie, anche accecamenti dovuti alla, all'infervoramento direi ideologico oppure delle appartenenze, c'è bisogno di una guida che invece conservi la giusta distanza, cioè una persona che non aderisca in modo così troppo umorale alle cose che accadono, se ne sappia distaccare, ma se ne sappia distaccare non fino al punto da apparire un mero entomologo che guarda senza passione alle cose. Tony esprime esattamente questo principio della giusta distanza ed è secondo me un grandissimo merito che pochi, se non pochissimi, di quelli che scrivono di Alto Adige hanno, e poi conosce intimamente la realtà locale, nelle sue sfumature direi proprio più fini, quindi ogni articolo che voi leggete magari la mattina al bar, come è giusto fare, perché gli articoli di giornale vanno letti anche in modo veloce, non sono dei saggi, delle riflessioni che devono essere necessariamente approfondite col pennarello e il righello, però nonostante questa leggerezza e questo tono apparentemente disinvolto, troverete sempre delle delucidazioni che sono difficilmente confutabili anche da chi poi ha, vorrebbe capire questa realtà in modo più approfondito. Quindi ecco, un faro non indifferente. Questo era il mio cameo che spero sotto la bronzatura da sci c'è un rossore. Spero non sia, non è piaggeria, perché se non lo sentissi non l'avrei fatto. C'erano altre occasioni per farlo, ma non l'ho fatto, invece questa sera mi sembrava giusto farlo. Detto questo, do la parola subito a te e ti stimolerei con una prima domanda. Ah, fa parentesi, questo nostro colloquio può essere interrotto da voi ogni volta che lo desiderate e appena possibile, direi dopo le prime battute, io aprirei proprio anche a voi la possibilità di fare interventi, considerazioni, curiosità, visto e considerato che abbiamo l'opportunità di avere l'autore del libro a portata di mano. Il titolo del libro dice "Non siamo l'ombelico del mondo" e in un certo senso è chiarissimo cosa vuole dire, però è una metafora di tipo spaziale, anche se diciamo corporea, lo spazio dell'ombelico in cui si gira intorno. Il difetto quindi di girare sempre intorno ai soliti temi e il provincialismo. Io però l'ho inteso anche, per certi versi, come un ombelico di tipo temporale, cioè come se, nonostante l'escursione temporale degli articoli copra 7 anni, più o meno, 6 anni, arriva fino al 2011, l'ultimo articolo è datato 21 giugno 2011, se non sbaglio, quindi sono 6 anni, se tu intuisci una staticità anche temporale, cioè il rischio del girare sempre intorno ai soliti temi è reale e sicuramente va esorcizzato. Ma hai notato, come dire, vengono questi articoli attraversati anche da un vettore temporale che suggerisce un cambiamento di qualche tipo, una maturazione di qualche tipo, cioè sta cambiando l'Alto Adige che tu osservi regolarmente di giorno in giorno, si trova un senso di cambiamento in questi testi, oppure invece la metafora della staticità è predominante in assoluto? Grazie e ringrazio di nuovo per le cose belle, troppo belle che ha detto, e ringrazio poi gli organizzatori della biblioteca che sono stati molto carini ad invitarmi e tutti voi che siete qui. E questi sono articoli, sono 44 righe a 60 battute. 2440 battute ogni volta, perché questo è lo spazio che ho nella prima pagina, quello deve essere, non si sgarra, si sgarra di poco, insomma si può aggiustare tipograficamente, per cui sono cose che si leggono in 4 minuti, 5 minuti, non di più, perché questo è il lavoro dei giornali, i giornali si lavora per la cronaca, non per la storia, come si dice, per cui è un lavoro così, molto banale per alcuni versi, no? Perché ti deve dare un po' di informazione, un po' di ragionamento se possibile, un po' di divertimento in modo che non siano 40 righe noiose, perché se sono anche noiose diventa terribile. Voi sapete che la concentrazione che le persone possono, il tempo, oltre che la concentrazione che si può dedicare alla lettura di un giornale, diventa, a parte le persone fortunatissime che di tempo ne hanno, è modesto. Per cui già dedicare alla lettura di un qualcosa 5 minuti non è frequente. Si guardano un po' i titoli e si sfoglia via. Chi ha la fortuna di leggere di più, ecco, meglio per lui, perché più si legge più si sa, più si sa più si ragiona più si è informati, e tutte queste cose che sappiamo. Questo per dire che sono lavori minimi, sono lavori da cronista, sono lavori, nonostante le sue belle parole, devono essere considerati così. Dopodiché è chiaro che uno ci mette dentro quel tanto di esperienza che ha, quel tanto di incultura, quel tanto di conoscenza, eccetera, eccetera. E per rispondere alla domanda di Gabriele, la risposta è sì e no. Io mi ritrovo nel lavoro di giornalista a ripetere e a rivedere sempre le stesse cose, sembra che il tempo da noi non passi mai. I temi sono quasi sempre quelli, no? Sono la proporzionale, e la fosparta, e l'autonomia, e di più l'autonomia, e meno l'autonomia, e il monumento, e poi se non è il monumento alla vittoria è quello di Mussolini. Però i temi sono gli Schütze, i temi, quelli che così per alcuni versi appassionano di più, sono sempre gli stessi. Questo è vero. Ma io credo che questa è una condanna che ci porteremo dentro, io l'ho scritto in qualche pezzo, una condanna, è un dato normale, siamo in una terra di confine. Siamo in una terra con persone di storie, origini, culture, lingue diverse, tutte cose che sappiamo. È un posto più bello, ma anche più difficile dove vivere. Non c'è dubbio che richiede per chi ci sta degli sforzi maggiori rispetto a quelli che hanno intorno a sé un contesto che gli è tutto familiare. Qui non lo è, lui è qui da 15 anni e ha dovuto scoprire un mondo nuovo. E lo ha fatto con gli occhi della sua intelligenza, della sua capacità, e scopre questo mondo nuovo. Chi invece c'è qui da sempre deve sapere, se non l'ha ancora capito, che deve avere degli occhi e deve fare degli sforzi ulteriori, perché è un mondo più complicato di quello che si ha dalle altre parti, più difficile anche, ma anche molto più bello e molto più stimolante, perché non hai sempre le solite cose intorno. Dopodiché i temi sono sempre gli stessi, perché? Perché c'è anche la politica, perché ci sono i giornali che parlano più facilmente delle cose problematiche, se non negative, rispetto alle cose più dinamiche e positive. È abbastanza normale, appena incontro un amico la domanda è: come stai? Mi fa male la schiena, non ti dice ho fatto una bella sciata, ti dice mi fa male alla schiena, perché siamo fatti così. Per cui in questi anni i temi sono per molti versi sempre gli stessi, invece vedo che è cambiato di parecchio l'atteggiamento tra le persone, nei gruppi, non tanto nella politica, I pezzi non sono tutti pezzi di politica, sono anche pezzi di costume, di storielle e via dicendo, non è che è tutto politica. Chiaro che la politica per chi lavora nei giornali ha un peso grosso, però non è tutto lì. Le persone sono più attente al prossimo, molto di più. C'è stata una maturazione progressiva notevole da questo punto di vista. Più attenti al prossimo vuol dire più attenti agli umori, ai sentimenti degli altri. Abbiamo avuto il fenomeno dell'immigrazione, che è un fenomeno che ci sta coinvolgendo, coinvolge tante persone di tutti i gruppi linguistici, ci ha costretti a dei... Una volta si diceva basta che non sposi un italiano a una buona ragazza sul tirolese, si diceva così, adesso basta che non sposi un negro, la prossima volta sarà basta che non sposi un giallo. Perché? Perché il mondo va avanti anche per queste banalizzazioni. Le esperienze della diversità ci arricchiscono e ci costringono ad essere, per cui c'è stato nella società da questo punto di vista un progresso, c'è parallelamente, ed è il limite grosso nostro, politico, un peso della politica dominante per molti versi, al quale noi della stampa diamo a volte anche un eccesso di rilievo. Gli umori di il 3% della popolazione o dal 5% della popolazione rappresentata da un partito, non so, i Freiheitlich che sono di più del 3, o della Evacuosa, è come se fossero tutti a dir così, a far così, via dicendo, enfatizziamo in oppure quello che dice Seppi come se fosse tutto quello che è diverso. La gente ha uno, gli italiani adesso, se non hanno capito adesso che guai se non si impara il tedesco e fanno di tutto per impararlo, perché sennò qua chi non l'ha imparato ed è ormai avanti con gli anni, pazienza per lui, ma guai se non si fa l'impossibile perché i figli, i nipoti, i bambini imparino il tedesco. Una volta sembrava che il tedesco non lo sai e chi se ne frega, siamo in Italia, ed era un'enorme stupidaggine. Adesso l'hanno capito tutti, anche se ancora si fa troppo poco sempre, perché se non ci si capisce non c'è ragione per, neanche per lo stare insieme volontariamente, neanche occasionalmente. Ecco, questo è un cambiamento da questo punto di vista enorme. Avviene anche nelle famiglie sudtirolesi. Voi non avete idea di quante sono le famiglie, non avete, lo saprete, ma sono tantissime famiglie sudtirolesi che si danno da fare perché i figli imparino l'italiano oltre che l'inglese, si muovano, si diano da fare, non siano chiusi, perché sanno che la fortuna nostra è proprio di essere qui, l'Europa è messa lì e noi ci siamo abbastanza in mezzo, e di avere lingue e culture diverse. È quello che noi abbiamo di più di altri, di più dei bavaresi, di più dei tirolesi del nord, di più dei veneti. Abbiamo la possibilità di vivere in contesti di più culture e di più lingue, e dobbiamo farli fruttare di più. Vale più questo dell'avere una norma autonomistica che ti dà una competenza in più, vale di più questo se lo fai fruttare. C'è maggiore consapevolezza in questo. Senti, quindi maggiore consapevolezza vuol dire che è sotto la crosta, provo a sintetizzare per rilanciare, sotto la crosta di semplificazioni che noi ereditiamo sia dal passato ma sia anche dal linguaggio, diciamo, della politica, che punta più sulle contrapposizioni anche per profilarsi, eccetera, la società dici sta cambiando, no? sta crescendo in questo senso. Qui io ti chiedo, noi abbiamo un paesaggio giornalistico o di mediatico, come si dice, abbastanza ricco, perché abbiamo in provincia addirittura 4 quotidiani, il Dolomite, che è il quotidiano di riferimento del gruppo linguistico tedesco ed è il quotidiano più letto, abbiamo l'Alto Adige che in qualche modo ne rispecchia proporzionalmente, diciamo, in diffusione sul versante italiano, e poi abbiamo gli altri due giornali, la Tageszeitung e il Corriere dell'Alto Adige, che è un giornale, non perché ci scriviamo noi, io ritengo qualitativamente competitivo rispetto, per esempio, all'Alto Adige, ma anche agli altri, però che non ha, diciamo, una forza di penetrazione come gli altri, perché la diffusione è minore, perché si vede meno, perché sta dentro il Corriere, per cui soltanto chi lo compra. Io ancora oggi incontro persone che dicono: ma tu scrivi, ma dove scrivi? Sul Corriere dell'Alto Adige. E che giornale è? In edicola non si vende. No, si vende, ma è nella pancia del giornale più grande nazionale. Arrivare, come dire, il giornale, il mestiere del giornalista, qui ci sono due chiavi di lettura diverse su questo mestiere, no? Quella, diciamo, di stampo anglosassone, per cui il giornalista deve fondamentalmente ricercare e informare, avendo un filtro quanto più possibile trasparente rispetto alle cose che enuncia, e invece dall'altra parte la tradizione anche, diciamo, dell'intellettuale italiano, gramsciano, per cui l'intellettuale deve invece formare, deve in qualche modo dirigere l'opinione su certi fatti piuttosto che altri, ma deve proprio costruire l'opinione delle persone. Io credo che, non voglio fare il mediatore ad ogni costo, ma credo che occorra mediare queste due istanze. Tu come la vedi in teoria, in astratto, e come pensi che sarebbe possibile in qualche modo per noi che viviamo qua fare della buona stampa? Qual è la ricetta della buona stampa? Avessi avuto questa ricetta, io ho fatto tante avventure giornalistiche, avessi avuto la ricetta avremmo risolto almeno nel settore della stampa tanti problemi. Non è così semplice, evidentemente. Chi compra i giornali da noi e altrove, e qui parlo e rispondo anche alla tua parte del meno diffuso, una delle prime cose che si va a guardare sono i necrologi. Purtroppo è così, per cui chi ha i necrologi vince sul mercato. Noi, che abbiamo una popolazione di età elevata, scusate, ma mi ci metto dentro, ma è così, per noi questo vale ancora di più. Per cui è un argomento questo che vale per quel che vale, ma c'è. Oltre all'abitudine, oltre alla bravura e al merito di chi fa questi prodotti giornalistici. Io sono della tua idea, bisogna mediare tra le due cose. Perché? Cioè tra il giornale di inglese, che poi non è vero che esista più, però si diceva gli inglesi, io ti racconto quello che è successo, tic, poi tu ti arrangi e fai. Non è vero che sia così neanche per loro, non solo con i giornali tabloid, ma neppure con i giornali più importanti. Oppure il giornale che è di battaglia, il giornale con il giornalista che è un educatore, oppure è un combattente per la sua idea, il suo partito e via dicendo. Io credo che si deve informare per farsi capire, ma per far capire. Le informazioni slegate tra loro, per cui tu dai l'informazione, ma se non le leghi insieme, non gli dai un prima e un significato, dicendo che è un significato, sono informazioni che possono creare solo confusione, o spesso possono creare solo confusione. Guarda, vi faccio un esempio banalissimo che a me ha irritato molto ultimamente, o anche un filo polemizzato. Questa battaglia sulla settimana corta alle scuole, avete presente? Sì. Ecco. Allora, su questa settimana scorsa cosa è venuto fuori? Settimana corta, sì, no, hanno consultato, hanno fatto, poi la giunta provinciale ha deciso l'assessore Caslater Moore con gli assessori italiani che hanno votato contro, essendo minoranza, e la cosa è andata così. È venuto fuori poi con articoli, quella cattivona della Caslater Moore, che sarà anche cattiva, però insomma, lei dice le sue cose. È venuto fuori da una questione di scelte di risparmio per la scuola, i bus il sabato, le mense che ci sono, gli orari degli insegnanti. È venuta fuori di nuovo una questione tutta nostra, altoatesina, quasi etnica, i cattivi tedeschi che decidono sulla testa dei poveri italiani che erano lì e che hanno dovuto subire questa decisione. E hanno subito perché è colpa, sono minoranza, hanno detto di no, più che dir di no. Non volevano, non potevano, e la cosa è colpa della cattivona, lei individuata e via dicendo. Ma le cose purtroppo o per fortuna non stanno sempre così, nel senso che dentro le giunte, dentro, si può dir di no, si può dirlo con più forza, si può dirlo con meno forza, si può far finta di dirlo e far finta di non dirlo. Le decisioni si assumono, si prendono, oppure si dice no, non ci sto perché è una cosa fondamentale per me, che sono competenti in questo settore, non mi lascio imporre da un altro quello che devo fare io, fatelo per te semmai. Questa inadeguatezza della risposta politica di chi doveva prenderla è stata scaricata sempre sui soliti cattivi della Fosfate che hanno deciso al posto nostro. Io l'ho trovato questo, il solito modo di creare una polemica etnica sbagliata, mentre invece era una polemica tecnica, finché volete, o sociale, ma è stato scaricato su una questione etnica, come si fa sempre quando si vogliono mascherare debolezze proprie. E questo non va bene, perché? Perché alimenta poi quel circolo vizioso, gli italiani che si lamentano, siamo quattro gatti, poverini, decidono sopra di noi, non possiamo neanche farci gli orari scolastici come vogliamo. Quattro gatti in 13 partiti. E poi ci sta anche questa questione qua. Per cui io sono dell'idea che da noi poi, io ho lavorato tanto all'ANSA, che è quella che dà le notizie che riguardavano la nostra regione, poi naturalmente anche Bolzano, al resto d'Italia e qualche volta anche all'estero. L'ignoranza sulla nostra realtà è spaventosa, non solo in Italia, ma anche in altri paesi, fanno confusione su tutto, Trento e Bolzano sono la stessa cosa, la proporzionale sì, boh, ma va. I lettori di giornali, ma anche non solo il lettore che lo sfoglia, ma anche quelle persone più acculturate, sono molto spesso, da questo punto di vista, molto superficiali. E la necessità, pertanto, non di fare azione politica o di educazione, ma di fare di azione di informazione meditata, questo ci vuole, indispensabile, e ci vuole soprattutto in una realtà come la nostra, proprio perché altrimenti le confusioni, il passare da una questione tecnica a una questione politica, da una questione amministrativa a una questione etnica, è un passaggio che si fa in un attimo, creando delle situazioni pericolose anche. Sono perfettamente d'accordo, oltretutto mi sembra che, come dire, quindi proprio questa funzione di, perché molto spesso io ho visto, insomma, che succede, che messi di fronte a certi fatti uno in realtà non vede i fatti, ma manda il disco che ha sempre recitato, e anche se il fatto cambia, il punto di vista rimane paradossalmente attaccato al vecchio schema. Quindi uno sforzo, diciamo, di cambiare gli schemi con i quali si guarda la realtà è particolarmente importante. Senti, io adesso poi volevo andare sul tema che noi abbiamo deciso di mettere un po' più al centro della nostra attenzione stasera, e leggervi anche un editoriale di Tony a livello di esempio, no? Di exemplum, come viene guardata la realtà e viene scritta la realtà. Però mi ci voglio avvicinare abbastanza lentamente facendoti due domande, che posso anche cercare di legare. La prima proprio da scolaro, nel senso, fai finta che venga qua una persona giovane e completamente inesperta che vuole capire questo mondo e ti chiede, bussa alla tua porta e ti chiede quali fenomeni o quali personaggi devo studiare maggiormente per appropriarmi delle dinamiche profonde di questa terra. Cioè, una domanda difficile, ma voglio dire, qui c'è Lucio una volta, Lucio Giudice Andrea, che una volta mi impressionò con una domanda che fece a Bressanone nell'ambito della presentazione dei candidati sindaci alla città dove lui è nato e io sono approdato, e diceva, ma lo disse poi in pizzeria, wer hat das Sagen hier? Cioè chi comanda, o meglio, chi è che decide le cose qua? Al di là dei discorsi che chi è più visibile o meno, ma le linee di tendenza dove si sviluppano? Non devi fare dei nomi, ma puoi dire anche per esempio nell'industria dei microchip, se ci fosse, oppure nel settore della pesca delle trote, è importante guardarci perché lì, se è possibile rispondere, se è possibile rispondere, magari non è possibile rispondere perché la realtà è più confusa. A questa domanda difficile invece volevo porne poi un'altra, puoi slittarci anche subito, però questa domanda prima io ci terrei in modo particolare perché a volte ho l'impressione che bisogna proprio sfuggire a quel meccanismo idiota che ci porta magari a parlare per l'ennesima volta del Monumento alla Vittoria. E io stesso ogni volta che scrivo dico, cazzo, adesso scrivo, scusate, devo scrivere, faccio un pezzo sul Monumento alla Vittoria, però poi dopo le prime tre righe dico... Ma cosa sto scrivendo? Ma chi frega fondamentalmente? Ma è qui veramente, è qui che si gioca il destino futuro dell'Alto Adige? Oppure ci sono dei fenomeni che io continuo a ignorare e che e per mia insipienza non riesco a raggiungere? Perché secondo me, se noi facessimo tutti, sia quelli che scrivono che quelli che leggono, questo sforzo di mettere a fuoco le vere fonti del dinamismo locale, forse il dinamismo locale apparirebbe in quanto di dinamismo e ci sposteremo veramente in avanti. Questo è un mio cruccio, nel senso che io a volte veramente dispero della mia capacità stessa di continuare a scrivere, perché non vorrei veramente continuare a dire le stesse cose. Però questo è un conto. Il secondo conto e il secondo punto sul quale poi vorrei spostare la discussione è quello della, noi scriviamo sul giornale italiano, siamo di lingua italiana, della percezione dell'italianità, sia dell'italianità locale, sia soprattutto del riferimento più vasto, in quanto noi siamo chiaramente parte di un popolo e di una nazione che è stata lo sparring partner, a volte felice, a volte infelice, della minoranza dominante. E il quadro è cambiato recentemente con un cambiamento di governo, che forse non è solamente un cambiamento di governo, ma un cambiamento di epoca, forse, dico forse, e quello che ciò implica eventualmente di positivo o di negativo nell'evoluzione dei rapporti tra le minoranze, tra la minoranza e la popolazione di appartenenza nazionale. Queste sono due domande che ti possono far parlare per altre due ore e poi apriamo la discussione. O se no apriamo la discussione. Mentre facevi le domande io pensavo, no, dico, cosa gli dico adesso? Perché una volta volevo scrivere un libro, anzi l'ho cominciato, un romanzo, come tutti vogliono fare. E questo romanzo ce l'ha il titolo, a me piace, sono bravo nei titoli, perché anche di questo non siamo l'ombelico del mondo, è bello. Poi dentro magari può, però il titolo è bello. Il romanzo avrebbe avuto come titolo, avrà forse se mi impegno e se, La Valle delle Donne. Che è bello anche come titolo, no? Buono, anche se credo che ormai qualcuno... Ed era dedicato, pensato, alle donne della Val Badia. Perché più che altrove, più che nel resto del mondo dove sono le donne a far andare avanti il mondo, lì lo fanno andare avanti. E l'immagine che avevo io era, perché le conoscevo, ne conosco alcune di queste signore, di donne economicamente che stanno bene, anche molto, perché hanno lavorato molto, che vanno in giro con dei grandi macchinoni tipo Milano SUV, hanno vestiti elegantissimi, scendono dalla macchina, hanno degli alberghi molto belli, ma la prima cosa che fanno vanno a dare il mangime alle galline dietro. Vanno a dare il mangime alle galline e girano con vestiti bellissimi, SUV, e tagliano l'insalata nell'orto dietro. E mi pareva questa, mi è sempre parsa... Ma sai che addirittura una risposta? Dove si guarda? Io questo... Pensavo che tu non riuscissi... Qui volevo arrivare, e io non lo so, però a me i ladini piacciono moltissimo e mi pare che siano quello che, non che noi dovremmo essere perché non c'entra nulla questo, però che siano una sorta di esempio, quindi ladini, esempio di delle tutte le potenzialità che abbiamo e di tutto quello che potremmo prendere, copiare, imitare, migliorare, ma potremmo prenderlo lì. Questo è un primo pezzo della risposta. Ma già una rispostona. Bene così? Sì. L'altro non mi ricordo più la domanda. No, il cambiamento di paradigma, se è un cambiamento di paradigma tra il berlusconismo, gli anni che io... Allora, noi siamo adesso in una situazione che purtroppo è di crisi economica, perché io adesso sto molto sui montagni, a Nova Ponente, e lì la gente è carina e dolce, però... come lì e altrove sento che succedono delle cose, non lì ma anche altrove, e lo vedo, lo sento alla Rai Sender Bozzen, che sento dei programmi che intervistano, la gente telefona, pare che ci sia una situazione così, che noi siamo qui, che l'Italia è messa non come la Grecia ma quasi, è messa male, che Monti è bravissimo per fortuna, anzi averne tanti, anzi se fosse arrivato 10 anni prima sarebbe meglio, anzi se restasse lì altri 10 anni sarebbe ancora meglio. Abbiamo però questa crisi e ti vacilla intorno tanto quella che era, cioè sul benessere economico si è costruito molto nella nostra società, molte delle certezze e via dicendo, la paura che qualcosa ti venga meno crea degli squilibri, non c'è dubbio, e allora c'è una facilità nel parlare, lo fa la FOSPA, la folla autonomia. Adesso è venuto fuori che con 10 milioni di euro, oppure il 10% del bilancio, 1502 esatti sarebbero i poliziotti, per cui la polizia passa alla provincia o la provincia prende questa competenza e tac, un pezzo di folla autonomia è fatto. Oppure vai lì e dici no, io voglio il libero Stato, Freistaat, e vai lì e in 448 c'è il libero Stato. Lo compri, no? Oppure, come ha detto l'altro, che si compra libero Stato in 10 anni, diamo allo Stato 10 miliardi, se li risparmiamo di qua, tiriamo di là, e incameriamo competenze per cui. Cioè, è una situazione di confusione da questo punto di vista e di leggerezza nell'affrontare tematiche che sono invece complesse, difficili, che possono scatenare passioni non sempre razionali, non sempre, anzi le passioni lo sono molto poco, ma molto anche pericolose. C'è una leggerezza nell'affrontare questi passaggi, questo difficile passaggio che abbiamo, che è un passaggio di crisi economica, la realtà, dalla quale bisogna venire fuori e dalla quale vorresti non far parte, ma è quello che desiderano tutti, insomma. Se piove tutti vogliono avere un ombrello, se c'è il brutto tempo tutti vorrebbero stare al riparo dal brutto tempo, tutti vorrebbero stare altrove dove si sta meglio rispetto al dove si sta peggio, anche se la sorte ti ha portato a vivere un momento come questo. Questa è una situazione piena di contraddizioni, questa qui, anche dal punto di vista del comune sentire. E la cosa che più mi preoccupa è proprio questa leggerezza nelle affermazioni, nel sognare cambiamenti che non sono né facili né leggeri, né tantomeno vicini, né tantomeno rapidi, ma nella leggerezza con cui questo viene fatto, nella leggerezza con cui si usano delle parole grosse e importanti rispetto a una realtà come la nostra, che è quella dell'autonomia speciale. Io ancora sono indignato, lo capisco il perché, ma sono indignato perché noi non abbiamo la festa dell'autonomia, non abbiamo un giorno in cui gli italiani, i tedeschi, i ladini dell'Alto Adige sono qui e festeggiano con la scuola chiusa, settimana corta e scuola chiusa, festeggiano e vengono anche le autorità da Vienna, da Roma, da Bruxelles, festeggiano perché qui abbiamo una grande, bella e buona autonomia e dobbiamo farla funzionare al meglio. Non lo abbiamo questo, l'hanno fatto i trentini in parte, perché poi qui si ha i trentini, poi non lo fanno perché non ne avrebbero diritto, ma insomma. E noi non lo facciamo, perché? Perché viviamo di schizofrenie che la politica ci impone per alcuni versi. Da una parte la politica ci ha salvato dalle difficoltà di anni difficilissimi, dall'altra non si decide a dire abbiamo fatto una grande cosa, facciamola funzionare bene, facciamola funzionare al meglio. È sempre un parlare d'altro, invece di dire ecco, abbiamo qui quello su cui dobbiamo lavorare tutti insieme, dobbiamo far fruttare al meglio tutti insieme, ecco. Per cui è un momento, credo, di confusione da questo punto di vista. Allora, adesso andiamo su questo come si dice? Mettiamo fuoco. Focalizziamo questo tuo spunto, che fino adesso giustamente si è tenuto in generale, la mancanza per esempio di una coscienza limpidamente autonomistica in cui sia i tedeschi che gli italiani convengano in modo profondo, sentito, su questo patrimonio comune manca, per cui abbiamo ritrosie dall'una parte storicamente determinate, quelle italiane, ma anche dal punto di vista tedesco, con il refrain della soluzione di transitoria che no, dice sempre, allude sempre a sviluppi futuri. Io andrei proprio su una considerazione più stringente per quanto riguarda quelle che possono essere chiamate e devono essere chiamate le debolezze del gruppo linguistico italiano, dando un esempio di come tu tratti questo problema. Un articolo dell'11 gennaio 2008 intitolato A Roma l'Alto Adige è Südtirol, con il sovrattitolo Verso le elezioni. E sentite i temi, come dire, come vengono sgranati, e poi magari un commento su questo. In fondo è passato poco da quando il centrodestra unito aveva ottenuto a Bolzano lo strepitoso risultato di fare eleggere Ivan Benussi sindaco. 11 gennaio 2008. Pareva un voto destinato a cambiare la politica della città e della provincia, costringendo la SVP a prendere atto che doveva confrontarsi non con il centro-sinistra minoritario, ma con il centro-destra maggioritario. Poi si è visto com'è andata. Di quell'unità si è persa quasi traccia e Benussi è ormai leader di un partitino che si arrabatta nel cercare alleanze. Nel centrodestra, più come auspicio che altro, resta il sogno di una rinnovata unità per arrivare alla quale pare però si faccia poco. Troppe ambizioni personali, troppe rivalità e anche molte strategie diverse, soprattutto sul come rapportarsi all'SVP, la vera misura di tutte le cose. Così appare pura fantasia ipotizzare, come ogni tanto si sente, una sorta di rappresentanza unitaria degli italiani. Sarebbe già una buona cosa se si unissero quelli del centro-destra e altrettanto facessero quelli del centro-sinistra, oppure tutti quelli del centro, ma di centri ce ne sono ormai sin troppi. Si sta così andando alle prossime elezioni con una miriade di sigle e siglette. Eppure è difficile dar torto a uno dei temi centrali su cui Ivan Benussi, il sindaco di Maggio, insiste. Non c'è futuro politico per gli altoatesini se non con partiti a fortissimo radicamento locale. Perché a Roma conta solo la SVP, corteggiatissima dal centro-sinistra per sostenere Prodi, corteggiatissima dal centro-destra per farlo cadere, o viceversa a seconda della... Allora era così, poi è diventato così. Visto da Roma, l'Alto Adige è il Südtirol. Chi comanda è la Volkspartei, un ben godi invidiabilmente amministrato, altro che Italia in declino alle prese con l'immondo scandalo delle immondizie napoletane. Per il resto gli elettori italiani di centrosinistra, ma pure di centrodestra, valgono a Roma come un quartierino di una qualsiasi grande città. L'esperienza dei 5 anni di governo Berlusconi, al di là della propaganda e dei paroloni, lo ha dimostrato, e poi quello futuro lo ha ridimostrato. E con i governi di centrosinistra è storia quotidiana. Prodi abbraccia Durnwalder e scia con Elmar Pichler-Rolle. Se gli chiedete chi è Tommasini, deve probabilmente chiedere informazioni. La situazione, insomma, è sconfortante e foriera, cioè da temere, di astensionismo oppure di fughe di voto italiano verso la SVP. Eppure un punto di forza i partiti italiani lo hanno, ma non ne sono consapevoli fino in fondo. Grazie allo statuto, la SVP non può governare da sola, ma deve farlo almeno con qualcuno di loro. E allora, siccome abbiamo citato prima Monti, ci sarebbe il pericolo che a un certo punto la SVP nomini degli assessori italiani tecnici. Non si può fare. Uno dice magari, non si può fare, ma era quello che diceva la signora Frankel in alcuni versi, quel commento che faceva. Sì, questo era riferito a quel periodo, però quello che è successo allora con il centro-sinistra è successo adesso con il centro-destra. Abbiamo visto adesso per il monumento, il Pifrade, la toponomastica, cioè a Roma decidono, prendono le decisioni sulla testa di tutti. Non sapeva nulla la Biancofiore, non sapeva nulla Holzmann, poi il giorno dopo piangevano e dicevano, l'altro giorno l'ultima, il Consiglio Provinciale si è riunito alla Commissione per le autonomie e per lo Statuto d'Autonomia per dire no a una proposta di legge costituzionale per diminuire il numero dei consiglieri provinciali da 35 a 27. Una proposta di legge costituzionale presentata da chi? Dal PD. Dal PD di Roma. Quelli di qua non ne sapevano niente. Per dire, perché? Perché così va il mondo. Poi il disegno di legge magari è giusto, non ha importanza questo. Voglio dire che le logiche rispetto ai numeri nostri, da quando è chiuso il pacchetto, mettiamola così, e da quando, sono logiche che ci considerano per quel che siamo. Siamo un gruppo, parlo degli italiani in questo caso, 150, 180, 200, a seconda, di persone con opinioni politiche diverse che vivono, così siamo visti per molti versi giustamente nel resto d'Italia o nel resto d'Europa, in una zona bella, amministrata bene, dove c'è lavoro, le cose che dice Durnwalder, queste sono viste. A Roma, giustamente, dal loro punto di vista, contiamo niente, contano niente i partiti che sono espressione dei partiti nazionali per molti versi. I Verdi ne sanno qualcosa, sono stati quelli che si sono poi staccati, anche i Verdi ne sanno qualcosa. Hanno candidato. I Verdi hanno avuto la fortuna che il loro partito di riferimento sia autodistrutto. Si è autodistrutto questo, ecco. Però per dire, per tutti è un meccanismo inevitabile. Però noi, come italiani, continuiamo ad avere troppo un legame di dipendenza, di longa manus, da filiale, da concessionaria dei partiti nazionali. Per cui a sto punto cosa fa domani? Ma perché devo stare qui a perdere tempo a parlare con te che rappresenti questi 20.000? Parlo col tuo capo direttamente a Roma, il quale ha bisogno di me per il voto. Tu conti niente, devi esserci perché lo statuto impone, meno male che c'è lo statuto, che ci sia un governo di gruppi linguistici diversi, meno male, perché è una garanzia per tutti, ma altrimenti non conti nulla, dunque ti scavalco sempre. È successo al centro-destra, è successo al centro-sinistra e succede in continuazione. Fino a quando, credo io, non c'è la consapevolezza della necessità di un forte radicamento territoriale nell'autonomia di quelli che qui ci vivono, per cui partiti che siano partiti di qua, non localistici, non voglio dire che devono andare tutti leghisti, ma partiti che sanno che prima di tutto viene il nostro territorio, la nostra patria è più qua. Dopo certo ci sono i problemi nazionali, ci mancherebbe, c'è l'orientamento destra-sinistra sui grandi valori e ci mancherebbe, però non essere figliali di altri, perché finché si è figliali di altri si conta men che meno dei 150.000 di un quartiere. Questa consapevolezza manca, per cui a Roma quando ti dicono vediamo un po', Trento prendiamo un partito qualsiasi, Bolzano è della Bianca, stanno litigando perché non sanno ancora, poniamo dentro il PDL se Bolzano è da mettere a quelli ex AN o quelli di Biancofiore, no? Però negli altri partiti del PD sanno che Bolzano è Bersani, per cui potete fare quel che volete, deve essere uno dei suoi, e via dicendo con tutte queste cose qua, a cascata tutte queste cose qua. Ti manca un'autonomia poi anche di azione e di rappresentanza, perché in realtà non sei lì per rappresentare i tuoi elettori, ma sei lì come longa manus di altri, scavalcabile quando vuoi e quando serve, cioè sempre praticamente, perché poi succede così. Sì. E questa è una delle lacune grosse che ci sono, ma è politica, culturale e via dicendo. Allora, io adesso mi piacerebbe approfondire questo tema, perché la domanda successiva a cui veramente noi dobbiamo lavorare, non stasera chiaramente per dare una risposta, ma lavorare come come si supera, come si produce l'attaccamento al territorio e dunque come si produce un'azione politica che non sia semplicemente l'espressione di echi lontani captati, diciamo, con mani brancolanti nel vuoto, ma come si costruisca effettivamente un rapporto produttivo, serio, costruttivo, non retorico, non ideologico con il territorio, e come si diventi interlocutori riconoscibili delle istanze di potere locale. Questo è il problema serio che la politica dovrebbe porsi, noi lo poniamo da giornalisti, opinionisti, ma chiaramente tutti se lo dovrebbero porre, perché se non viene fuori questa classe dirigente qua, chiaramente il gruppo italiano è, io direi anche giustamente, condannato all'estinzione, perché si autocondanna all'estinzione. Comunque questi sono stimoli che mi piacerebbe ribatteste voi direttamente, magari con vostre domande e vostre osservazioni. Noi abbiamo fatto i 50 minuti di prammatica, oltre i quali io do sempre la parola al pubblico, perché sennò più che una lezione diventa una predica, e questo sarebbe sbagliato, per cui innanzitutto ringrazio questa prima tranche di che mi sembra stata molto buona, è registrata, per cui siamo anche posteri, ci siamo autoposterizzati, la bontà di questa oretta è documentata, ma potete renderla ancora migliore voi con le vostre domande. Due domande, vero? Facciamo prima la signora, voleva? Prima la signora. Ladies first, diciamo in inglese. Lei cede il posto a Lucio Giudice Andrea. Lucio, prego. No, a Tony l'ho già detta, però mi premeva dirla anche al pubblico, perché tu hai parlato del titolo, Tony, sei bravo a fare i titoli. Secondo me, se mi posso permettere, questo titolo non è molto azzeccato, e ne trovo una riprova in quello che tu hai detto ultimamente, cioè adesso tu hai detto finché non si sviluppa un forte legame territoriale, ed evidentemente, credo di non interpretarti male Tony, questo appello è rivolto soprattutto alla comunità di lingua italiana, perché la comunità di lingua tedesca di questa terra conosce ogni angolo, ogni insegna, ogni steccato, ogni cima, ogni passo, ogni forcella, ogni lago, ogni fiore, ogni pianta, ogni animale, eccetera, eccetera. Cioè, pensiamoci bene, è la comunità italiana che per molti anni, per molti decenni, si è chiamata fuori da questa terra dicendo ma cos'è, questa è una provincia, un posto chiuso, per sapere qualcosa, per farlo bisogna andare fuori di qua, bisogna andare là dove le montagne non ci sono più, dove gli orizzonti si aprono, e con questi, chiamiamoli ragionamenti, ha anche secondo me prodotto un certo sradicamento, o meglio non ha consentito che si producesse un radicamento che è necessario per ottenere quello che invece si auspica. Quindi non siamo l'ombelico del mondo, secondo me è un messaggio che può andare bene per la comunità di lingua tedesca, che avrebbero forse più spesso bisogno di guardare fuori di qua e di sapere che cosa avviene fuori di qua. Ma alla comunità italiana, ai lettori del tuo libro, io, Tony, come del resto tu fai e dimostri di fare nel tuo lavoro, consiglierei di occuparsi un po' più proprio di questo mondo, ovviamente sempre sapendo che l'ombelico del mondo non è nessun posto, perché anche la nostra Roma, che si ama autodefinirsi caput mundi, non è poi al caso, cioè questo lo credono forse i romani, ma non è che al mondo si guardi a Roma e adesso... Una volta lo era, se professoressa, una volta c'erano tante cose, oggi non è che il mondo si sveglia e guardi a Roma, se permette, ecco. È una città come tante altre, ma ce ne sono altre con le sue particolarità, non è che altre città non abbiano storia, non abbiano particolarità, ce l'hanno anche le altre, quindi mettiamo un po' da parte questa cosa. E poi volevo dirti, da questo discende anche l'altra cosa, Tony, la festa dell'autonomia. Adesso non c'è proprio una festa dell'autonomia, però noi che frequentiamo e che per mestiere giriamo, vediamo che l'autonomia da parte della comunità sudtirolese viene festeggiata molto, cioè non è che si salta una scadenza, ci sono celebrazioni, viene ricordata l'accordo di Gasperi Gruber, no, il pacchetto, no, no, no. Cioè, sì, insomma viene. No, no. Chi invece, scusa Tony, chi invece non ci può essere la festa dell'autonomia, anche perché intanto il mondo sudtirolese ha larghe fette che guardano oltre questo modello, che immaginano altre cose. E poi non nascondiamoci dietro un dito, ma perché la comunità italiana, questa autonomia, quando si fece, quando si decise questa autonomia, non è che la comunità italiana fosse proprio entusiasta a dire sì, vogliamo questa autonomia. La comunità italiana, finché ha potuto, l'ha osteggiata questa autonomia, finché ha avuto la forza, ha impedito che si facesse. Quando poi è stata più o meno costretta a farla, l'ha fatta. E per fortuna, negli ultimi anni, sempre più italiani si convincono che questa autonomia non è qualcosa di diabolico, non è qualcosa di terribile, non è qualcosa di fronte al quale mettersi le mani nei capelli, ma forse è qualcosa per la quale valga la pena anche di stare qui, vivere qui, impegnarsi, eccetera. Grazie. Sentiamo un altro intervento, la signora. Signora, guardi, sul titolo, come ha detto il era uguale? Era, sì, quindi però... ha espresso molto meglio quello che volevo dire. Ma su questo ne dubitiamo molto. Prego. Allora, io sono d'accordo con quanto ha detto il signor Visentini, con quanto ha detto il signor Lucio Vincendrea per quanto riguarda l'autonomia. Sono d'accordo che si alzi, se no lo vediamo. Fondamentale deve esserci una, yes, deve essere una festa, perché purtroppo noi come italiani probabilmente non conosciamo approfonditamente la storia di questo nostro territorio. E i tedeschi invece, i tirolesi, la conoscono molto approfonditamente. Io sono nato a Bolzano nel 1945, ho 66 anni. I miei sono venuti a Bolzano non perché sono voluti venire, ma perché sono stati costretti a venire nel 1919, nel novembre. E quindi, diciamo, per me è stato fondamentale, per potermi riconoscere come tirolese italiano, conoscere la storia. Ed io sono convinto che se noi italiani conoscessimo la storia di questa regione, su come è nato, su come è fatta, apprezzeremmo molto di più l'autonomia e saremmo anche molto felici di festeggiare. Sono anche convinto di una cosa però, che anche i tirolesi, se conoscessero bene l'autonomia, tutti quanti, non avrebbero la necessità di richiedere l'autodeterminazione. Mm-hmm. Altri impulsi, se no ecco, prego. È stata una navigazione tipo, credo si chiami kitesurfing, quello che mette lì, cioè il surf e poi fa dei salti eccetera, quindi la complessità è tale che inevitabilmente va bene così, però la paura, adesso rassegnatevi che io devo dire due altri, cioè, io so che qualcuno dà fastidio, però mi scuso in anticipo, però secondo me si potrebbe fare un altro passo, lasciare perdere la festa e invece proporrei l'affrontare dei problemi veri della nostra terra, che poi sono sempre legati ad altri problemi, per cui l'ombelico, se è visto come qualcosa di negativo, un finto centro eccetera eccetera, può anche essere visto come simbolo di legami invece, quindi affrontare dei temi che sono qui non specifici perché o hanno una parte specifica e una parte uguale a tutto il resto del mondo e affrontarli insieme italiani e tedeschi. Ho sempre un po' di paura quando si rifà il discorso come se fosse una malattia, io condivido quasi tutto quello che dice Lucio, Lucio Andrea, che tu vuoi dare, però salta fuori come una malattia che è da curare, eccetera, con le feste, questo. Fra l'altro non tutti gli italiani che sono venuti qua avevano quell'atteggiamento, io sono nato in Badia, mio papà doveva sposare una badiotta, poi sposare mia mamma che era umbra, e ho sempre sentito parlare bene io dei tedeschi, ho sempre vissuto in ambienti, io questa storia degli italiani chiusi nel loro buco, personalmente non l'ho vissuta e penso che ci siano tanti italiani, tedeschi, ci siano tanti tedeschi, li conosco. Ce n'è uno, per esempio, in Aurina, che ha chiesto a Ren Kohlhaas, che è un grande architetto, di prestargli la sua bandiera. Questo Kohlhaas ha fatto insieme con Prodi una bandiera dell'Europa che è fatta di tutte le bandiere attaccate in tutta l'Europa e ha chiesto di poterlo attaccare a casa sua e anche è andato insieme a un amico a attaccarlo in cima alla montagna in alternativa alle solfe della Vette Terra. Cioè, ci sono un sacco di sudtirolesi che sono aperti al mondo, i giovani giro, cioè, e non tutti gli italiani siamo così cretini, mi scuso, da pensare di doverci chiudere in un gruppo etnico e di dover avere dei rappresentanti che tutelano. Invece affrontare, per esempio, la Biancofiore è nota anche in Cina, perché è sul giornale in Cina con la torta col dito. E io l'ho incontrata, gli ho detto, come vecchia professoressa, che non fa una bella figura, ma non ci siamo capiti. Adesso questo chiudo, questo pezzettino, allora faccio delle proposte. Il tema della scuola non può essere affrontato insieme italiani e tedeschi, ma che problema c'è? Invece di finire in quelle cavolate settimana corta, settimana lunga, dove subito c'è quello che ci gioca etnicamente, come ha detto lei, dove c'è quello che dice noi italiani siamo più avanti, i tedeschi sono più stupidi, eccetera. È una questione marginale. Se invece si affronta l'intero sistema, sia sulla scuola, sia la sanità, sia le tasse, sia lo stato sociale, e si affronta sforzandosi di affrontarlo insieme agli italiani e tedeschi, c'è veramente un potenziale di intelligenza in più, che non la logica del gruppo che si rinchiude dentro il suo steccato e si difende. Detto questo, io ho una proposta, il titolo è come un mantra, questo ce lo diciamo, però io sono interessata alle azioni. Ed è, sarebbe una sulla toponomastica, non riesco a trovare nessuno, non due o tre persone, un'istituzione a cui interessi. Allora, i temi etnicamente sensibili possono essere smontati con una logica che non sia né quella che ci si aspetta dai tedeschi né quella che ci si aspetta dagli italiani. Allora, cerco un'istituzione che sia disposta a fare un atto di rinuncia a 100 toponimi tolomeiani all'interno prima di un convegno, cosa che ho già organizzato a scuola mia. Conoscendo uno dei maggiori tolomeisti e un altro geografo, eccetera, si potrebbe anche spiegare una volta sola, dopo basta, chi era sto Tolomei, eccetera, eccetera, e poi vedere la ridicolaggine di una serie di nomi e dire, io posso andare anche a Chiara Hitchberg, sempre che si chiami Monteguzzo, e stupida così. Questo sarebbe una mossa laterale rispetto a quello che nel copione ci si aspetta che facciano i tedeschi e che fanno più o meno regolarmente gli italiani. Allora una parte di italiani dice: tenetevi questi nomi, cioè, non li consideriamo neanche nostri, se ne prendono 100 e si scavalca Durval, eccetera. Poi si cercano un po' di tedeschi, io ho provato, cercherei giovani, però chi organizza sta cosa deve essere, possono essere persone di qualsiasi età. Si cerca un tot di tedeschi, e anche lì non è difficile, che dicono: noi sappiamo che c'è stata una germanizzazione nell'Ottocento e tuttora alcuni nomi retoromani si cerca di tradurre in tedesco, eccetera. Ci scusiamo e noi chiameremo Caseles Caseles, perché non è che il suo nome è Caseles, eccetera, eccetera. Poi i retoromani potrebbero fare anche un gesto, i ladini, anche qui c'è un ragazzo molto in gamba, possono farci i nomi perché sta cosa, e dicono: beh, in fondo ci sono state sempre delle occupazioni, anche noi avremmo portato via un po' di aria qualche d'un altro. Ci sono naturalmente poi gli slavi, sono dei toponimi che sono slavi, taisten, allora si fa un gesto di riconciliazione, peraltro fatto tra persone che non si considerano amiche, ci si fanno dei doni reciproci. Okay. Ho due geografi super, eccetera, però al dibattito sulla toponomastica quest'estate in Consiglio Provinciale, che era un dibattito molto interessante, non c'era nessuno, eravamo in due. Quando si tira fuori, tutto lo schieramento italiano ha paura che gli portino via qualcosa, e tutto lo schieramento tedesco ci sguazza di così. Io vorrei che si chiudessero una volta per tutti due o tre temi con qualche azione un po' più imprevedibile che non quella attuale. Grazie. Allora, Tony, se vuoi replicare a Lucio, sul, non solo sul, cioè, il titolo, mi sembra... Potrei replicare io quasi, ma no. No, sono solamente il mediatore, il modesto mediatore. E sulle osservazioni che ha fatto Lucio, sulla festa, diciamo che secondo me una più marcata presenza identitaria, autonomistica da parte di tutti sarebbe necessaria, perché non è così come... cioè si tende a glissare. No, non c'è. Non c'è. Io sono, vado avanti io. Vai. Dire. Non c'è la festa dell'autonomia, non c'è un evento, un momento in cui per tutti, ma neanche per la popolazione di lingua tedesca, per la Volkspartei, diciamo, perché poi questi gesti devono venire da qualche istituzione o dal... ecco, non c'è. Non c'è per mille ragioni, perché l'autonomia non è quella che volevamo, perché le volte che si è cercato di fare un qualcosa c'è dentro De Gasperi, il nome De Gasperi non si può perché De Gasperi non è... ecco, questo è tutto vero, è anche tutto comprensibile per molti versi, ma se vuoi guardare avanti o costruire qualcosa devi avere anche dei momenti in cui tutti si devono riconoscere, perché se tu poni sempre obiettivi diversi non costruisci niente, fai difficoltà a costruire, poni solo degli obiettivi, mentre invece non hai una base che sia una base riconosciuta. Io credo che il momento per riconoscere questa base nell'autonomia c'è, certo c'è chi la conosce di più, chi l'ha costruita, chi l'ha voluta, chi non l'ha voluta. Io, parentesi, qualcuno di voi si ricorda che a Bolzano esisteva il giorno? Quelli più anziani se lo ricordano. È stato fondamentale per la nostra... È stato fondamentale. Allora, io ho cominciato a lavorare al giorno. Perché? Perché allora non c'erano interlocutori italiani che dicevano: bisogna finirla con le bombe, bisogna trovare una soluzione e venirne fuori. Non c'erano interlocutori italiani né per i partiti di lingua la Volkspartei né c'erano per il gruppo italiano. Dal punto di vista mediatico di informazione fu inventata quella soluzione per dare almeno voce a chi diceva: basta, finiamola, troviamo a... ecco, per dirne una. Ma un momento comune non c'è, non c'è per mille ragioni, e secondo me è sbagliato, e non c'è neppure per la popolazione di lingua tedesca questo. Mentre invece sarebbe una cosa utile farne un momento, evento serio, non la festa della Repubblica, la festa dell'autonomia. Magari non va bene quella dell'accordo di Parigi, fissiamo un'altra data, ma facciamolo, perché da quello si costruisce. Poi ha ragione lei, io sono d'accordo, che bisogna cercare di fare segnali di distensione, di riappacificazione, di che parlano al di fuori delle istituzioni e via dicendo. È fondamentale quello che la gente si riconcili, se ha delle cose che ti creano l'un con l'altro. Lo facciamo in famiglia, lo facciamo con gli amici, lo facciamo nel condominio addirittura qualche volta, dove litigare è d'obbligo, perché non lo dobbiamo fare tra chi vive insieme in una stessa zona. Sono comunque cose che creano la cultura del rispetto reciproco, la cultura. Se noi siamo una terra in cui gli italiani devono farsi perdonare il fascismo, gli sudtirolesi devono farsi perdonare il nazismo, i sudtirolesi devono farsi perdonare le bombe, noi dobbiamo tutti farci perdonare qualcosa. Sì, ma il conto non è pari e patta. No, non è pari e patta, non sta di specificità. Ma non c'è ci dubbio. Sono delle cose particolari, non c'è dubbio. È stata voluta, c'è stato un gruppo che maggioritariamente ha lottato per quella. No. E c'è stato un gruppo che invece si è opposto. Allora, Lucio, conto, Lucio, Lucio, Lucio. Stai facendo confusione. No, no, no, no. Non c'è stato un gruppo che ha lottato per l'autonomia, c'è stato un gruppo che ha lottato per l'indipendenza, per l'annessione. Poi è venuta fuori l'autonomia. L'ha voluta maggioranza di pelo, ma l'ha votata. Dopo. Allora dire che siamo tutti è sbagliato, no, Tony, perché la comunità italiana su questo tema si porta dietro un mal di pancia che ancora non ha risolto. Tutti devono fare appello alla buona volontà. La buona volontà serve, è necessaria, però non è che gli spuri non c'è questo e non c'è questo, non è così simmetrica la cosa, non è così. Poi certo che gli altri guardano avanti perché già nel 69 volevano di più, certo che dopo 50 anni guardano avanti, e noi invece stiamo arrivando là dove altri stanno partendo, così è. Non sono d'accordo con te. Non sono d'accordo con te, nel senso che non è vero che nulla è simmetricamente opposto, ci mancherebbe altro, non siamo mica degli automi, però è inevitabile che nella storia di ogni popolo, nella storia di ogni territorio, ci siano momenti in cui uno è in un punto e l'altro è nell'altro. Queste cose qui devi conoscerle, ma devi superarle, le superi anche con i gesti che diceva lei, li superi anche con i gesti di buona volontà, perché altrimenti non ne veniamo fuori. È vero che la gran parte del gruppo italiano l'autonomia non... tant'è, vi dicevo, io sono cominciato a lavorare il giorno perché all'epoca l'Alto Adige apriti cielo, come per molti versi il Dolomite apriti cielo su altri versi, ragazzi, così era il mondo, era nazionalisti di qua e nazionalisti di là, all'epoca era così. Ma il mondo, se va avanti anche per gli sforzi e l'intelligenza delle minoranze intelligenti e di buona volontà e di quelli che si rispettano. Le cose si costruiscono, non è che poi tac arriva che tutti siamo lì. No, questo non succede e nessuno ha detto che debba succedere. È nella consapevolezza che si costruiscono le cose che vanno avanti. Non è perché te lo comandano che tutti diventano improvvisamente democratici, autonomisti e tutti tolleranti. Non è così. Ma chi è in grado di farlo, quello deve farlo. Questo sto dicendo, chi è in grado di farlo lo deve fare, ecco. Perché altrimenti non ne veniamo fuori, ah, mai. Bene, bene, bene. Si sta accendendo un dibattito furioso, prego. No, vi sentivo parlare e questo L'ombelico del mondo, quantomeno per la serata, ci sta benissimo. Il libro lo devo ancora leggere, quindi... Ma succederà presto, succederà presto. Esatto, quindi il titolo dirò poi. Io per lavoro ho a che fare con la Catalogna. Molto simile. E che fino al 78, quando Franco non è morto, c'era gente che finiva in prigione perché parlava catalano o perché studiava sui libri catalani. E sono stata di là un anno e mezzo fa per lavoro, e quello che mi raccontano quando facciamo i parallelismi con l'Alto Adige è che loro non hanno diviso il mondo in lingua familiare, cioè loro non parlano di gruppo spagnolo, gruppo catalano, ma per esempio hanno diviso la loro terra o il modo di vedere le cose in catalano parlante e non catalano parlante. Cioè, ci sono spagnoli che parlano il catalano e spagnoli che non hanno voglia di parlarlo. E il catalano si capisce per uno spagnolo, è facile, cioè non sono le due... Come? Bisogna vedere qual è il catalano, se il tedesco o l'italiano. Sì, sì, no, il catalano è il tedesco, ok? Benissimo, perché chiaramente è la minoranza. Sì, bene. Ma nel momento in cui incominciamo a aprire gli orizzonti e dividerci tra chi parla la lingua e quindi ha avuto voglia di avvicinarsi all'altro, forse cambiamo paradigma. E dall'altra parte, cambiando questo paradigma, non fossilizzandoci sul il gruppo italiano, lei diceva prima, è forse scompare. No. No, lei diceva è destinato a scomparire, no? Magari. Era un punto di domanda. Non mi avventuro mai in pronostici così. Ma dice, se va avanti così, chi lo sa? E se anche fosse? Sì, sì, cioè, certo. Se si trasformasse. Beh, sarebbe una perdita per tutti. Il italiano a quello che di là chiamano la catalanità. Sì, cioè, sì, la sottirolesità o l'altoatesinità. Sì. Magari ci guadagnerebbero. Io ho mia suocera, era una dalmata profuga. Sì. E quando le si diceva, ma tu che cosa sei? Lei diceva, io sono dalmata, sotto il governo austro-ungaro, perché non c'era austro-ungarico, e di sentimento italiano. Si possono aggiungere delle cose. Certo. E l'ultima cosa, l'ultimo presidente della Catalogna è un ispano parlante a casa sua. Ma i catalani hanno deciso che era il migliore per rappresentare la loro catalanità. Quindi forse siamo ancora un po' lombelico. Ah, che belle cose. Belli interventi. Può ripeterlo esattamente uguale? Ma per la registrazione. Per la registrazione. Prego. Posso permettermi solo un attimo? Certo. Quanti italiani, secondo voi, hanno votato per Magnago ai suoi tempi? Secondo me tantissimi. Secondo me tantissimi. Allora, a metà degli anni Ottanta abbiamo raccolto 25.000 firme, parliamo della metà degli anni Ottanta, 25.000 firme il Movimento Sociale Italiano, primo partito, partito che raccoglieva la grande maggioranza del consenso italiano, per abolire la proporzionale e il bilinguismo. Non è, ecco, allora per tenere conto di questo, veniva detto che gli italiani ci credevano, è sbagliato che noi dobbiamo imparare il tedesco, e tutti correvano dietro a queste cose. Chi è corso dietro questa chimera oggi chi deve ringraziare? Chi ha creduto a queste allodole oggi? È già stato detto. Non tutti insieme, se no facciamo come la televisione. Non tutti insieme. È già stato detto da Astro Visentini quello che ha detto. Io sono nato 84 anni fa a Bolzano e non davano una casa a mio padre, che veniva da Trento per la dogana, ma neanche la dogana, spedizioniere doganale. Era bilingue, per forza era andato a scuola con il perro sul carico e non ci dava una soffitta in via. Io sono nata in vicolo San Giovanni, in una soffitta, forse si chiamerebbe Mansarda perché nel frattempo è diventata Mansarda. Ma questa era la situazione nel 1927. È cambiato, insomma, per fortuna. Guai se non cambiasse. Io volevo. Prego. Ma volevo solo dire questo: noi italiani, però, non dobbiamo dimenticare che i cittadini tirolesi sono stati obbligati a parlare l'italiano e a impararlo attraverso le catacombe sue e tutto quello che è successo dal 1920 in poi, 1921 in poi. Quindi, giustamente, anche noi italiani abbiamo avuto questa difficoltà di dover imparare il tedesco, però non dobbiamo dimenticare quali sono state le loro difficoltà. E bisogna anche aggiungere un'altra cosa, naturalmente, che purtroppo fra italiani e tedeschi abbiamo a Bolzano, forse nei territori più ampi, abbiamo la possibilità di convincerci e di poterci conoscere di più attraverso la conoscenza della storia. Ma nei paesi delle valli, io ho abitato 15 anni a San Genesio, 8 km da qua, ma in paese ero dell'italiena e non c'è niente da fare da dire. E sono queste cose che noi dobbiamo eliminare attraverso la conoscenza della storia di questa regione. E attraverso la conoscenza della storia di questa regione, e questa, noi dobbiamo riuscire a capirci. Volevo dire una cosa prima di darti la parola, ce la fai come dire, se no se devi proprio. No, perché ci sono quelli che non riescono. stavo riflettendo adesso su una cosa, adesso ho visto che c'è Thomas Kager in. Eccolo, allora. No, però forse era una cosa diversa. io ho letto di recente una cosa che mi ha come dire, colpito molto, ed è una disamina della storiografia locale fatta da uno dei maggiori storici locali, che è Hans Heiss. Lui in un articolo pubblicato di recente sulla rivista Geschichte und Region, che è questa lodevolissima rivista di storiografia locale scritta in due lingue che raccoglie i contributi più interessanti degli storici locali sulla nostra terra, ha fatto una disamina della storia degli storiografi locali, lamentando, lui conosce benissimo tutto quello che viene scritto su questa regione, lamentando un punto di vista riassuntivo, e ha detto forse il miglior libro scritto su questo posto, non come singoli contributi in miscellanee o non come gigante produzione, ma riassuntivo e divulgativo, l'ha scritto un italiano, cioè l'ha scritto Romeo. Però purtroppo è poco letto, Carlo Romeo, è poco letto sia dagli italiani che soprattutto dai tedeschi. Quindi voglio dire, esistono delle piantine, non è vero, non volevo dire che siamo tutti da buttare. Ci sono dei grossi contributi anche da parte nostra, ma siamo abituati forse ad avere poca mancanza di fiducia in noi stessi e ci buttiamo giù forse più di quello che è necessario. Dovremmo recuperare più fiducia sia come gruppo, anche se io non sono certamente un feticista del gruppo, ma anche come interlocutori, perché poi alla fine abbiamo qualcosa da dire. Tony, volevi? Sì, volevo, e poi credo che sia ora di chiudere. Volevo dire un'altra cosa sullo stesso filone. Abbiamo qui Thomas Kager che se ne va, della Rezia, no, che è una casa editrice che fa volumi nelle due lingue e via dicendo. Abbiamo, e qui contraddico quello che diceva Lucio prima su noi italiani non conosciamo, cioè soli su tirolesi conoscono ogni viottolo, ogni strada, ogni montagna, ogni cresta, ogni rifugio. Abbiamo qui Renzo Caramaschi che ne sa più di tutti, e i suoi libri sono straletti da tutti quelli che girano per le nostre valli, ed è un nostro buon concittadino di lingua italiana che sulle sa tutto, ma tutto di tutto, di ogni valle, di ogni rifugio, di ogni malga, di ogni cima, di ogni sentiero e anche di quelli che ancora verranno. Per cui il mondo va avanti e andiamo avanti anche noi. Ultimissimo intervento, ultimi due intervento, no, l'ultimo, tre, no, non è possibile, due. Sono brevissimo, ma il discorso del libro di Caramaschi mi fa, il commento di Tony Visentini mi fanno venire in mente che la situazione in cui noi, il gruppo linguistico italiano, ci troviamo, non è certo data da carenze di intelletti, perché fino a 15 anni fa, in tutto il mondo altoatesino, chi insegnava era l'italiano. L'ingegnere più bravo era l'italiano, l'architetto più bravo era l'italiano, l'insegnante più bravo era l'italiano, era tutto così. Adesso cominciano ad avere professionisti, commercialisti, avvocati, eccetera. Come noi abbiamo portato la civiltà, adesso hanno cominciato, ma iniziano molto lentamente. Avevano una situazione, non voglio dire di sottosviluppo, perché era un mondo rurale, era un mondo che aveva anche poco interesse a queste cose. I terreni li vendevano al costruttore italiano perché gli mancava quella classe imprenditoriale o quel tipo di imprenditorialità, cioè avevano molti punti di debolezza. Gradualmente loro hanno risalito la china ed hanno preso un po' in mano, un po' troppo in mano la situazione. Non credo che l'abbiano presa al punto di arrivare alla eliminazione, come mi sembra che qualcuno prima paventasse, del gruppo linguistico italiano, con una semplice ragione: non hanno la convenienza di farlo. È la posizione chiara. Il signore dietro? Io solo alcuni concetti molto semplici, non a livello del nostro Caramaschi, eccetera. Perché lui è d'élite, no? Con i suoi libri, no? Io vorrei parlare molto chiaro, avevo in mano l'urbanistica, eccetera, l'edilizia, quindi Bolzano per un certo periodo, senza tessera in tasca e quindi essendo anche trentino era un po' sbilaneggiato, no? Quindi, oggi come oggi mi sento ghettizzato, signori, perché bisogna parlare di ghettizzato, noi siamo un enclave, diciamo bolzanina, senza alcun legame con l'agricoltura. Perché il primo legame col territorio è l'agricoltura, qui, no? Io Spagna, il posto politico, gli interessi socio-economici. Vengo a trovare. Vieni. Nelle nostre scuole non si parla mai di agricoltura, la geografia non si sa, solo a livello dei camaschi la sa lui, no? Ma chiedo scusa. E poi, prossima serata con noi proprio, anche come amministrazione comunale, verso una successiva, ulteriore ghettizzazione, pericolosissima, il costruire sul costruito, sul fazzolettone, eccetera. Vediamo le battaglie, diciamo, dei parcheggi sotterranei del Palvera, che è una vergogna, e approfitto di voi giornalisti della RAI, l'ultimo lotto che la RAI vuole mettere all'asta, un triangolo che era un relitto dei grandi condomini sui piacei delle Battisti, e lì si vuole fare delle torri anziché lasciare, diciamo, un giardino dove in un intero, diciamo, quadrilatero di centinaia di alloggi, soprattutto italiani, non c'è un albero, signori, no? E si va avanti così, no? Si costruisce sempre, e non parlo dei nostri politici perché è inutile dire, perché oltre dei nostri politici, signori, permettetemi di dire, soprattutto a livello comunale, che molti non sono all'altezza. Scusate, perché... Intanto c'è nessuno. Mancano veramente i tecnici, signori. No, voi rispettate. Così nella scuola, signori, così nella scuola. Mi permetto una piccolissima osservazione. C'era adesso forse un dibattito che non nasce, il cambiamento del nome di Saluro, Saluro Empani, eccetera. Perché gli italiani, lasciando perdere veramente la percezione letterale dello statuto, eccetera, non sostengono Solurno, che almeno Solis Urna, dal latino, dall'antico romano Solis Urna, potrebbe dire qualcosa, no? Uno quando va alla radice, eccetera. Lasciamo perdere anche queste piccolissime cose, no? Poi ci sarebbe da dire, abbiamo un'architettura ormai imposta. Noi, il gruppo, diciamo, tedesco, si tiene perché? Non è mica la lingua il tedesco, l'identità vera è il dialetto. Nelle commissioni importanti della provincia, lo stesso Antipasto, parla il dialetto, perché lo capisce sia il contadino, sia il turista, tutti. Ma l'italiano, siamo sempre una serie di gruppi così. Abbiamo i trentini ormai anziani che non... emarginati, no? Abbiamo nuovi gruppi, eccetera, del sud di tutto, no? E poi ci mangiamo fra di noi, e poi siamo ancora centro-destra, centro-sinistra. E questo, signore, torna al discorso. È una follia. Ora è un piccolo suggerimento: se uno legge la Dolomite, ogni tanto c'è quello che succedeva 50 anni fa. Sul giornale italiano, quando mai? Frangipane. No, tutti i giorni, diciamo, no? Lasciamo perdere lì. Chi del gruppo italiano legge la Dolomite nei bar, eccetera? Chi, quale politico italiano dà un'occhiata a quello che succede dai sagrestani, dai contadini, dalle vacche? Spero che lo faccia. Nessuno, signori, nessuno. Toni, vogliamo chiudere con un aforisma? Andrei avanti sulla... Scusate l'intervento. No. Trentinazzo. No. Diciamo che queste cose, no? È bello perché sono cose che solleticano sempre. L'autonomia nei Trentini, ma una vergogna come la celebra i Trentini, è solo per i soldi. Vabbè, ma buttali via. Che non è poco. Ringraziando tutti perché è stata una bella serata e mi è piaciuta molto, e credo anche a voi. No. Però sulle cose che diceva lei, io ho scritto una cosetta che dice così, cominciava così: avere poco terreno e costruirci sopra il più possibile. Una volta si chiamava speculazione, adesso è quello che succede a Bolzano.